Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Vorrei parlare del caso Lega Nord. Questo partito, benché relativamente giovane, fondato nel 1989, è forse in proporzione all'età il partito che ha avuto più feeling con il potere nella storia politica italiana. Per ben 3 volte ha fatto parte di una coalizione governativa e dal 2000 ad oggi è stato il partito più al governo della nostra penisola, ben 6 anni su 9, superando Forza Italia e AN, scomparsi lo scorso anno per fondare il PDL, condividendo politiche e marcando le proprie. Un partito quindi fortemente di palazzo, un baluardo delle istituzioni romane. Incredibilmente però, sui media passa ancora per partito di lotta e di protesta, di partito antisistema che si batte contro la prepotenza della casta e lo statalismo. Un partito che nelle parole è perennemente all'opposizione, ma fisicamente è invece ben piantato negli apparati governativi. Questo fantastico stravolgimento della realtà è alimentato, oltre che da un sistema dell'informazione molto miope, anche da una dirigenza di partito molto furbo e senza scrupoli, che da tempo ha intuito che le parole e i proclami hanno più effetto delle azioni sull'elettorato italiano. E quando si è un partito di protesta, qualcuno su cui far ricadere le proprie colpe si trova sempre. Nel corso degli anni i responsabili di tutti i mali erano via via il PDS, poi Berlusconi, poi Fini, poi il Vaticano, la sinistra, i comunisti, Roma, il Lazio e via dicendo. Ovviamente questi strali erano sempre lanciati con i piedi ben piantati nei palazzi del potere. Ma questa tecnica ha sicuramente riscosso un buon successo, poiché solo così è possibile spiegare la crescita esponenziale di un partito artefice, o al massimo coartefice, della gran parte dei problemi che sono sorti e accresciuti durante i suoi anni di governo e verso i quali la Lega stessa oggi punta il dito, accusando, senza capirlo, se stessa. Dal 2001 in poi, con il governo Berlusconi, la Lega è protagonista attiva di tutte le principali scelte governative. Ricordiamo che l'aumento della tanta vituperata immigrazione, clandestina e non, ha conosciuto dal 2001 una escalation inarrestabile, in pieno governo Lega Nord. Eppure, ci toccava sentire l'allora ministro della Giustizia Castelli domandare perché ci fossero 700.000 clandestini in fila davanti alle poste per richiedere un permesso di soggiorno. L'ex ministro chiedeva come mai le forze dell'ordine non intervenissero? Poteva chiederlo benissimo al suo leader Umberto Bossi, che con la mitica Bossi Fini aveva deciso di regolarizzare e sanare quasi 1 milione di clandestini. Se oggi in Italia ci sono 4 milioni di stranieri, lo dobbiamo soprattutto a loro, ai leghisti. Invece, continuano a lamentarsi e a protestare come fossero da anni all'opposizione. Ma sarebbe bene che qualcuno ricordasse loro che governano da quasi 1 decennio senza aver mai realizzato nulla di ciò che reclamavano. Pensiamo ad esempio alla devolution. Sembrava la loro unica missione, la battaglia della vita, nominata ad ogni comizio e discorso pubblico. Dopo averci rotto per 5 anni, un referendum in un giorno di mezza estate spazza via una lotta durata 5 anni. Cosa fa a quel punto la Lega? Insiste? Rilancia? Rompe con tutti? Neanche per sogno. Semplicemente, addio devolution. Si passa al più realistico federalismo fiscale. Battaglia che vedrete andrà avanti per i prossimi 4 anni, ma che probabilmente si risolverà nuovamente in un nulla di fatto. Lettera firmata. A proposito di cambiamenti, non ho sentito nessun dirigente del PD sottolineare come anche in Toscana, storica roccaforte, ci sia stato un loro calo tremendo. E la maggior parte dei giornali non ha sottolineato che nella mia città, Prato, quinta città del centro Italia, dominata da sempre dagli schieramenti di centrosinistra, finalmente si va al ballottaggio sia in comune che in provincia. Pensate che ci sono qualcosa come soli 2.000 voti di differenza e che alle scorse amministrative non solo non ci fu ballottaggio, ma ci furono ben 20 punti di scarto. Sebbene sia di Prato e non voglio certo passare come un campanilista, vorrei solo farvi riflettere su questo episodio storico. Ovvero, la seconda città della Toscana va al ballottaggio dopo ben 62 anni di dominio incontrastato del centrosinistra. Secondo me, come il sorpasso PDL-PD in Umbria e nelle Marche, questi sono i fatti su cui soffermarsi, più delle chiacchiere su chi ha preso di più o di meno, su Cacà, sul Sud, eccetera. Insomma, secondo il mio modesto punto di vista, ci sarebbe da valutare bene l'importanza di questi fatti, poiché hanno del clamoroso. Matteo, da Prato. Si fa in fretta a parlare di astensionismo. Siamo sicuri che tutti quanti non sono andati a votare l'abbiano fatto per scelta? Chissà in quanti, come è successo a me, l'hanno fatto per impossibilità, trovandosi lontano da casa. Il nostro mondo è fatto di gente in movimento, che per i più svariati motivi si trova da un giorno all'altro spostata anche sul territorio nazionale. E sarebbe così semplice in ogni luogo creare una sezione per i non residenti, dove un cittadino di un'altra città possa andare a votare senza problemi. Mi fa male non aver potuto votare, mi fa male pensare di non aver potuto dare il mio consenso, mi disturba entrare nel partito degli astensionisti. E mi ha molto colpito in Sicilia, dove mi trovavo in questi giorni, vedere che invece nessuno si poneva il dovere o il diritto di andare a votare nel più grande disinteresse, nella più alta disattenzione. E ho capito che non si astenevano per protesta, ma per rassegnazione. Tanto qui non cambia niente. Come se il voto non riguardasse la loro vita, il futuro o almeno la speranza. E ho capito a cosa servirebbe il ponte di Messina. Per quanto riguarda invece le reazioni e i risultati del voto, francamente non le capisco. Ci sono certamente piccole delusioni o aspettative non raggiunte, ma il primo partito in Italia non è cambiato. Il distacco dal secondo è sempre enorme ed il fatto che nella coalizione di governo gli equilibri si siano un po' spostati non cambia il giudizio finale sulla tenuta di questo governo. La politica sull'immigrazione, sui discussi respingimenti, ha premiato la Lega. E chi detesta Berlusconi ha trovato in Di Pietro uno senza peli sulla lingua. Non capisco perché chi ha comunque raggiunto ancora il primo posto debba essere delegittimato nella sua vittoria, che magari non sarà esplosiva, ma considerando che al governo, in tempi di crisi mondiale, di eventi sismici non previsti, di attacchi frontali senza limiti, a me pare un successo. Forse è chi perde, che per far apparire meno pesante il proprio insuccesso, deve sminuire la soddisfazione di chi è in vantaggio. Talmente era forte la paura di una sconfitta senza precedenti che gongolano per non aver perso totalmente il consenso e con arroganza si sentono forti della sopravvivenza. Va bene. E ora, che mancherà loro l'argomento principe di un premier pigliatutto, padrone assoluto o meglio dittatore, ora che gli italiani non si sono fatti condizionare più di tanto dalle frecciate di veleno, da tentativi di delegittimazione di un governo, ora dovranno dimostrare coi passi seri di essere un'opposizione valida e concreta. Il povero onesto Veltroni si è dimesso quando il suo partito è arrivato al 33%, deluso dai risultati, ed ha lasciato l'incarico al suo vice, che l'ha orgogliosamente atterrato sotto il 27%. Ma sento che tutti parlano della sconfitta di Berlusconi, dell'inizio del declino, della luna di miele terminata, dei problemi della maggioranza. Chi è così bravo da insegnare agli altri, come mai non raggiunge certi risultati? Hanno scelto di trattarlo come un tronista e non si accorgono che seguendo certe strategie gli stanno preparando uno scranno che comincia a luccicare come un vero trono. Giulia. Caro direttore, alle tante notizie degli ultimi giorni, le fotografie delle festicciole del Presidente del Consiglio, la sua giovane amica Noemi scortata dai vigili al seggio elettorale, i risultati delle elezioni, la soddisfazione dei vittoriosi, i leghisti che non stanno in sé dalla gioia, gli abbracci affettuosi, i sorrisi, le risate, le strette di mano degli uomini politici, Gheddafi a Roma e via di seguito, vorrei accostare la notizia di una sventurata trovata morta dissanguata a Torre a Mare, Bari, il 9 giugno. Il giorno dopo avrebbe compiuto 40 anni. Vira Orlova, detta Ilenia, lavorava come badante presso un'anziana signora. Secondo i carabinieri, ha iniziato a perdere sangue nella notte a causa di un aborto spontaneo. Chiusa nella stanza, ha aspettato e sperato di stare meglio. Ma quando ha provato ad andare in bagno, si è sentita male ed è caduta. È morta senza chiamare soccorso. Non aveva il permesso di soggiorno ed ha avuto paura di perdere il lavoro e di essere denunciata. Il sangue, tanto sangue, lo aveva raccolto in una bacinella. Elisa. Sono stato rappresentante di fabbrica della mitica Federazione Lavoratori Metalmeccanici degli anni 70. Ho partecipato alle lotte sindacali per la scala mobile e il miglioramento delle condizioni dei lavoratori. Non sono un leghista e non ho nulla contro gli extracomunitari. Sindacati, sinistra, destra e anche la Lega, che applica la strategia del «lo penso ma non lo dico», hanno paura di essere tacciati di razzismo quando toccano l'argomento degli extracomunitari. Abbiamo importanti settori industriali dove vengono impiegati quasi esclusivamente immigrati e non perché, come dicono tutti, certi lavori gli italiani non li vogliono più fare, ma semplicemente perché gli italiani, in molti settori, non sono disponibili a lavorare in condizioni disumane, orari impossibili, turni di riposo non rispettati, paghe basse, straordinari non pagati, eccetera. Da giovane andavo a raccogliere la frutta e guadagnavo in proporzione più di quello che si guadagna oggi. Mi ci pagavo le vacanze. Prendiamo ad esempio un settore che è sotto gli occhi di tutti, il turismo. Fino a 10 anni fa un cuoco o un cameriere guadagnavano cifre di tutto rispetto, più della media degli operai. Ora i ristoranti e gli alberghi sono pieni di personale extracomunitario. Proviamo a sostituire la frase comune «Gli italiani non vogliono più fare certi lavori» con «Non ci sono più le condizioni di una volta» e si capirà tutto. Se si guadagnassero 2.000-3.000 euro per fare il cameriere o il cuoco, sono convinto che ci sarebbero schiere di giovani laureati italiani che farebbero la fila per quel lavoro. Ai primi del Novecento, in occasione delle prime lotte operaie, i lavoratori che venivano ingaggiati per sostituire i lavoratori in sciopero venivano definiti con disprezzo crumiri. Dov'è oggi quella sinistra? Dov'è quella sinistra con il pugno alzato che oggi ci parla di solidarietà e non più di giustizia sociale? Piero, Verona. Caro Piero, è una bella domanda la sua, soprattutto dopo l'esito delle ultime elezioni europee e amministrative. Dov'è la sinistra? Una sinistra che parli di giustizia sociale ed equità, di giusto salario e di diritti degli operai. Forse quella sinistra non esiste più perché è la classe operaia di una volta che si è profondamente trasformata e perché in fondo gli stessi punti di riferimento sociale sono cambiati. Lei ha ragione nel sottolineare come uno dei problemi più urgenti sia quello di far crescere il salario reale dei lavoratori. Ha ragione perché l'Italia ha un costo del lavoro in linea con quello degli altri paesi europei, ma a causa del carico fiscale e contributivo ha dei salari netti ai livelli più bassi. Eppure, su questo fronte, la sinistra è come in sospeso tra un passato che non c'è più e un futuro che non si sa come affrontare. Forse la svolta si potrà avere se la sinistra saprà fare tesoro del risultato delle elezioni, dove la sconfitta è stata anche determinata dall'aver presentato i vecchi soloni della politica e del sindacato, mentre i pochi successi sono stati ottenuti dai volti giovani e nuovi, che però non parlano il linguaggio dell'antagonismo e della lotta di classe. Egregio direttore, ho ascoltato la lamentela di un'associazione femminile per la visita di Gheddafi e continuo ad ascoltare lamentele. Tutti possiamo condividere le lamentele, tutti siamo bravi a lamentarci, ma la soluzione? La guerra fatta contro Saddam è stata contestata. Il non accettare i clandestini e nel contempo il non volerli in casa è attualità da molto tempo. Sinceramente non capisco cosa vogliono dimostrare i contestatori, che si lamentano costantemente di non aver voce presso i media e contestualmente ne sono la voce preponderante. Ci vogliamo occupare dei problemi democratici degli altri stati? Vogliamo risolvere i loro problemi? Per prima cosa, risolviamo i problemi dei cittadini del nostro paese. I clandestini, finché sono tali, devono essere rispediti nel loro paese, salvo fare una legge che renda legale l'ingresso in Italia a tutti e di fatto elimini la clandestinità. Si vuole risolvere poi il problema democratico di altri paesi? Dirlo con le buone evidentemente non è servito. Altre soluzioni? Una guerra? Oppure si possono aprire le frontiere a tutti gli abitanti del mondo che vivono in situazioni, diciamo, non democratiche? Per questa ultima soluzione, però, chiedo il consenso popolare. Chiedo il referendum propositivo. Lettera firmata. La privacy, gentile direttore, è ovviamente cosa importante. Però ho l'impressione che le intercettazioni telefoniche siano una preoccupazione un po' più per le persone con la coscienza sporca e un po' meno per le persone con la coscienza pulita. Può darsi che sia solo una mia sensazione, però di una cosa sono persuasa, che se un giorno uno scienziato fosse sul punto di realizzare un apparecchio capace di intercettare i pensieri, sarebbe eliminato, lui non l'apparecchio, in men che non si dica, non da persone con la coscienza pulita, ma da persone con la coscienza sporca. Se invece la geniale invenzione si diffondesse e fosse alla portata di tutti, la gente semplice, buona e onesta, con tutta probabilità, riuscirebbe ad adattarsi alla nuova situazione. Ma per i delinquenti, per i banditi ed anche per tanti uomini potenti, galantuomini solo all'apparenza, la vita sarebbe impossibile. Una vera tragedia. La fine della privacy. Ma forse, chissà, l'inizio di un mondo migliore. Veronica. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.